ma io sarò veramente telegrafico e è tardi per tutti. E d'altra parte interloquire con gli assenti è scorretto. Io devo dire che peraltro con Salsano e Revegli mi sarei limitato a riporre degli interrogativi che secondo me sono rimasti ancora senza risposta, e per me sono gli interrogativi concreti. Insomma, io posso capire tutto quello che vogliamo, l'obbligo della reciprocità, il mio problema era questo: chi garantisce che quest'obbligo sia a quest'obbligo venga data risposta, sia rispettato? Questo è il problema. Il diritto nasce lì, la politica nasce lì, la statualità nasce lì, quando quello che io debbo avere, ma pensate allo scambio capitale lavoro, pensate che chi decide che un salario è un salario. Dopodiché lo so anch'io che fin quando c'è la forma salario siamo nel capitalismo. Il problema è che intanto nel capitalismo il salario bisogna che ci sia, dopodiché io faccio il mio conflitto. Se non c'è nemmeno il salario, c'è veramente un dono, ma un dono ben diverso da quello che Salsano evoca. Quindi il problema dell'obbligo, il problema della coazione, il problema della garanzia, insomma, secondo me il pensiero del dono è il pensiero al quale si vorrebbe ritornare paradossalmente nel momento di massimo arretramento della conflittualità. A me sembra un pensiero pericoloso, io lo dico chiaramente. Per quello che riguarda Revelli, ma appunto Revelli non c'è, la domanda che pongo a Revelli, ma la pongo anche ad Aldo da tempo, cioè io vorrei capire, ma insomma, il conflitto capitale-lavoro è o non è il conflitto dentro il quale stiamo ancora, e nonostante tutte le trasformazioni? Io scopro una assonanza, forse suo malgrado, forse si inalbererà con Marazzi. Io sono totalmente d'accordo, salvo una cosa che gli voglio dire chiedere. Ma le descrizioni, dice Salsano, il mio pensiero non è sufficientemente dinamico perché non vedo la trasformazione. No, io la vedo soltanto che non mi sembra una trasformazione, questo è vero, come dice, non mi sembra una trasformazione che spiazzi l'asse della conflittualità tra capitale e lavoro, anzi, secondo me la radicalizza. Certo che le forme sono cambiate, ma questo non mi basta, anzi mi dà un motivo in più per lavorare alla ricomposizione e alla riorganizzazione dell'antagonismo dentro il conflitto capitale-lavoro, non esorcizzandolo e richiudendomi nel microcomunitarismo. Dice Revelli, non è vero che tutte le forme di microcomunitarismo sono regressive. Certo che no, però mi serve il criterio per capire quali sono regressive, viva Dio, alcune saranno regressive. E allora io dico che l'unica forma, e d'altra parte altrimenti che cosa significa? Che continuare a parlare di esclusione. Beh, se il problema dell'esclusione è il problema che abbiamo di fronte, è chiaro che la categoria di generale o di particolare, di inclusivo o di esclusivo, è il problema che abbiamo di fronte. Aldo, tu dici il diritto nasce sulla coppia scarsità-eguaglianza, oggi abbiamo abbondanza-esclusione. Certo, ma il problema è, ci dobbiamo limitare a descrivere o invece dobbiamo imporre che la coppia diventi abbondanza inclusione, abbondanza eguaglianza, dunque diritti e generalizzazione dei diritti? Perché altrimenti non capisco. E io credo che il problema sia quello dell'universalismo buono. Guarda che l'applicazione dell'universalismo perverso è la storia del capitale. In questo devo dire, è vero che io non mi entusiasmo ai discorsi sulla globalizzazione, ma in che senso? Ma nel senso che la globalizzazione sta dentro il capitale virtualmente fin dalla sua nascita. Questo non c'è bisogno di Brodel, perché è Marx che ce lo dice. Questo non significa che già da allora e già da sempre la globalizzazione fosse in atto. Questo significa che il fatto che il capitale si mondializzi non muta il capitale in quanto tale e non muta il conflitto di classe in quanto tale. Volevo soltanto concludere, sono tante cose che volevo dire a Revelli, ma Revelli non c'è. Non è vero che l'idea del progressivo e del regressivo implichi teleologia, ma perché? Allora, lasciamo perdere la coppia progressivo-regressivo. Chiedo, posso usare la coppia migliore-peggiore? Insomma, io ho bisogno di un criterio per dire qualcosa mi va bene o qualcosa non mi va bene. Questo intendevo dire. Per me è chiaro che è una forma di progressiva localizzazione, segmentazione, frammentazione, particolarizzazione dei criteri di costruzione dei soggetti sociali è peggio che non un criterio di generalizzazione. Al compagno che mi assimila al PC io non posso rispondere granché, non mi riconosco nella tua descrizione. Sai, è un problema, certo, probabilmente io ho un'autocompressione scarsissima, ma il mio problema non era quello del PC, il mio problema è quello della generalizzazione delle condizioni di benessere, è quello della generalizzazione concreta dei diritti sociali. Questo è il problema, non l'ho letta nella vicenda che ha segnato la storia come dire, dei gruppi dirigenti che hanno fatto la politica del Partito Comunista. E concludo su Marazzi. Io credo, Cristian, non lo so, forse non ti ascolto con un orecchio sufficientemente attento. Io sono totalmente d'accordo con quello che dici. Che la difesa del welfare, giusta la storia del welfare e il governo reazionario del welfare, sia una difesa sempre a rischio di regressioni corporative, lo so anch'io. Il mio problema non è questo. Io chiedo, il welfare è stato il luogo in cui sono stati imposti dei diritti sociali, il riconoscimento dei diritti sociali al capitale. In parentesi, quando Revelli mi chiede che cos'è il diritto rimanda per forza allo Stato. No, il diritto rimanda al problema del potere dell'autorità, cioè della sovranità, ma questo è il nostro potere, è il nostro problema. Cioè il diritto è l'idea del riconoscimento reciproco e quindi di un potere capace di imporre il riconoscimento reciproco, ma comunque questo è un altro discorso. Allora, io dico, oggi il welfare è certamente a rischio di diventare il luogo della difesa corporativa del privilegio. Allora, non parliamo di welfare, parliamo direttamente di diritti sociali. Il problema nostro è o non è quello di una lotta, di un conflitto a tappeto per la loro universalizzazione? Se lo è, siamo d'accordo su questo, dopodiché ci possiamo dividere come vogliamo sulle forme di questa organizzazione, ma è questo, e quindi il problema è quello della ricomposizione del conflitto, del soggetto adeguato al conflitto, e allora la domanda è, questo soggetto sta o non sta dentro il rapporto tra capitale e lavoro? Se invece non è questo, vorrei capire che cos'è. Ecco, quando poi, appunto, l'unica cosa mi divide, ma insomma una battuta, con questo chiudo per... scusandomi per l'irruenza e l'invadenza questa sera, a Marazzi, quando Marazzi dice, beh sì, vabbè, poi noi discutiamo, il capitale va avanti e la teoria va indietro. Certo, lo so anch'io che la teoria non procede, ma come farla procedere se non lavorando così?